Letture di Radio 24. Dopo l'infelice battuta del premier sui gay, le critiche sono arrivate sia da destra che da sinistra. Ma come scrive Alfonso Signorini su Panorama, è necessario distinguere tra indignazione e vittimismo ipocrita. Sono tra coloro che hanno giudicato inopportuna la battuta di Silvio Berlusconi sui gay. E l'ho detto subito. Ma ora devo dire che trovo altrettanto, se non più imbarazzante, il coro che l'ha seguita. Da una parte le difese d'ufficio di chi, come Daniela Santanchè, si manifesta come più realista del re, cercando di giustificare quello che giustificabile non è. E peggio ancora, l'indignata e quasi sempre ipocrita levata di scudi di chi ora si erge a paladino dei diritti gay. Eterosessuali tutti d'un pezzo, talvolta pure beceri, che improvvisamente si lanciano in difesa di quelli che hanno sempre considerato dei diversi. Antonio Di Pietro, per fare un esempio. Per non dire degli omosessuali dichiarati, come Nicky Vendola, che camuffano dietro frasette da baci perugina. L'importante è essere felici, e vorrei vedere chi è pronto a sostenere il contrario. Quella che è solo una palese strumentalizzazione per strappare consensi politici. Mi è tornato in mente La cultura del piagnisteo, un saggio di Robert Hughes. In questi giorni stiamo assistendo al peggio di questa cultura, che esalta non chi ha meriti e idee, ma chi appartiene all'etnia o al sesso discriminato. Ne ho trovato le scorie nell'intervento di Vendola a Vieni via con me, insieme alla sensazione sgradevole che stesse chiedendo a tutti gli eterosessuali in ascolto una sorta di legittimità al suo essere gay. È inutile denunciare la ghettizzazione quando siamo noi a crearci i ghetti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Alfonso Signorini, Attento Nicky a non fare la vittima, da Panorama del 18 novembre. Letture di Radio 24. In America la chiamano rubbernecking. È l'attenzione quasi morbosa che i curiosi rivolgono alle cattive notizie e che esiste da quando esiste l'uomo. L'espressione fu inventata in America sposando due comuni parole, rubber, gomma, e neck, collo. Ne nacque il verbo rubbernecking, per rappresentare le contorsioni elastiche del collo e le acrobazie cervicali che i passanti compiono per dare un'occhiata all'incidente. Da automobilista che percorre avanti e indietro centinaia di chilometri sulle autostrade americane, soffro, naturalmente, di torcicollo cronico. Ma il collo di gomma non è soltanto un segnale della nostra istintiva curiosità morbosa, quella che abbiamo visto dispiegarsi con furia bestiale, attizzata dalla televisione spazzatura nei giorni del delitto di Avetrana. Il rubbernecking è, esso stesso, una disgrazia. Il 21% dei disastri automobilistici, dicono le compagnie di assicurazione americane, uno su cinque è provocato dall'improvviso rallentamento, dalla frenata, dalla distrazione, dalla testa girata, dall'ingorgo stradale che si crea attorno all'incidente. E questo spiega perché siamo assediati ogni giorno, come fornitori o come consumatori di notizie, dalle cattive notizie, da quel catalogo di massacri e catastrofi, stragi, delitti, violenze, crolli, alluvioni, insulti, polemiche, incidenti, che a volte ci mandano a dormire sospettando che tutta l'umanità sia formata soltanto da ladri, stupratori, assassini, urlatori, malfattori e corrotti, ammesso che si riesca a dormire. La valanga di brutte notizie che ci sommerge è figlia di quel collo di gomma che si contorce per vedere se dentro le lamiere contorte ci sia magari ancora il disgraziato che era dentro l'auto. 3 notizie su 4 diffuse su tutti i mezzi di comunicazione, ha calcolato l'Università della Pennsylvania, possono essere classificate come cattive notizie, eventi negativi o pettegolezzi maligni. E tra gli eventi negativi non rientrano quei fatti come uragani, sismi o guerre che possono toccare la nostra vita e dunque devono essere dati. Tutti ce ne lamentiamo, eppure tutti partecipiamo al gioco del rubbernecking. Se nel caseggiato nasce un bambino, una buona notizia per definizione, al massimo qualche inquilino del palazzo, quasi sempre una donna che ha conosciuto le delizie del parto, chiederà come stia la madre e quanto pesi il neonato. Ma se qualcuno muore, la curiosità si scatena. Di che cosa è morto? Come? Quando? Quanti anni aveva? In casa o in ospedale? Aveva figli? Era sposato? Di dov'era? Era ricco? Eppure la morte è un avvenimento del tutto normale, se non è delittuoso, tanto quanto una nascita. Se si spargono voci false sulla signora dell'interno Biscala 3, in pochi giorni tutto il quartiere ne sarà informato e non ci sono smentite che tengano. Quella sarà per sempre una signora chiacchierata. Ma si provi a dire che la stessa signora è un esemplare professionista, una sposa e una madre impeccabile, e soltanto pochi vi crederanno. La buona fama non fa notizia. Eppure è molto più facile essere peccatori che santi. La virtù dovrebbe essere l'eccezione, dunque la notizia. Un devoto lettore della Bibbia potrebbe rispondervi che proprio questo fu il peccato originale della nostra specie, commesso da quella malcontenta di nonna Eva per curiosità, considerato un vizio specialmente diffuso fra i gatti e le femmine umane. Dunque gli automobilisti che si torcono il collo per dare un'occhiata all'incidente, i turisti dell'osceno ad Avetrana, i lettori e gli spettatori che decretano il successo delle pubblicazioni e dei programmi immondizia, sono la manina di nonna Eva che ci spinge verso la mela, qualunque cosa fosse davvero quella mela. Possiamo consolarci pensando che se non fossimo una specie curiosa e inquieta, se non portassimo in noi l'insopprimibile voglia di sapere, di guardare, di ficcare il naso fuori dalla nostra caverna, probabilmente mangeremmo ancora carne cruda con le mani nude, sperando di non essere mangiati da quelli che vorremmo mangiare. È quel collo di gomma che ha fatto di noi gli animali più evoluti di tutto il regno animale, quelle creature così intelligenti da provocare incidenti soltanto per vedere un incidente. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Vittorio Zucconi, Il gioco dei colli di gomma, dal settimanale di La Repubblica del 6 novembre. La pausa pranzo diventa sempre più cara. Una ricerca di Federconsumatori rivela che dal 2001 ad oggi la media dei prezzi nei bar e nei self-service è raddoppiata e molti lavoratori hanno imparato ad arrangiarsi, portandosi il pranzo da casa. Il pranzo al bar o alla tavola calda costa troppo. È tempo di tornare alla schiscetta, direbbero i milanesi. L'insalata, il panino, una pietanza portati da casa. O magari proprio un po' di quel polpettone rimasto sulla tavola della cena. La schiscetta, appunto. Lo dicono i milanesi e lo dicono ormai un po' tutti gli italiani, ciascuno nel proprio dialetto. Mangiare al bar o al self-service è diventato troppo caro e il guaio è che i prezzi crescono di anno in anno. Persino a volersi limitare, a rinunciare al secondo, un piatto di pasta oppure l'insalatone sono diventati un lusso. Se è vero, come certifica Federconsumatori con un'indagine sui costi che va indietro fino al 2001, che in tempi di vacche magre, per un primo non particolarmente elaborato, mezza minerale, un dessert al piatto e un caffè si spendono in media 11,95 euro, insomma 12 euro al giorno, che in un mese di lavoro fanno 262,90 euro, ben 18,70 euro in più ogni mese, con una crescita dell'8% rispetto al 2009, che è appena un anno fa, e del 116% rispetto al 2001, quando per mangiare al bar o al self-service si spendevano non più di 5,53 euro. Meglio allora aprire la credenza o il frigo di casa. Il risparmio è enorme. E pazienza se si deve rinunciare alla comodità del bar. Succede già da un po', conferma Roberto Piccinelli, docente di sociologia dei consumi al Politecnico di Milano, e si cominciano a vedere le conseguenze di questi cambiamenti delle abitudini, che poi sono cambiamenti sociali. La conseguenza più importante è che, a differenza di quello che si può credere, nella pausa pranzo il lavoratore sceglie comunque di uscire, di lasciare il posto di lavoro e andare fuori a prendere una boccata d'aria. Non resta seduto a trangugiare da solo il panino. Lasciare il luogo del lavoro per un'oretta è necessità, è di vitale importanza. Che si fa allora, se ci siamo portati qualcosa da casa? Si va a mangiare ai giardini. Il pranzo al parco è molto conveniente e c'è una bella differenza con quanto si arriva a spendere oggi nei bar e anche nei self-service. Secondo Federconsumatori, una mezza minerale nel 2001 costava 52 centesimi. Oggi te la fanno pagare anche 1,60 euro. Il piatto di pasta costava 2,32 euro, 5 euro nel 2009 e 5,60 euro oggi. Il dolce non superava i 2,07 euro 9 anni fa. Oggi invece arriva fino a 3,80 euro, 20 centesimi in più dello scorso anno. Il caffè è passato dai 62 centesimi del 2001 ai 90,95 di oggi. Tirando le somme, un decennio fa, la spesa per la pausa pranzo non superava i 121,66 euro al mese. Oggi, come detto, siamo sopra i 260. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Mariolina Iossa Al parco e con i cibi da casa. Cambia la pausa pranzo. Dal Corriere della Sera del 5 novembre.